devo regolarli di secco, dai, ma non mi interessa. Oh, e poi vabbè, metto il bip suo e è a posto, metto il suo bip e è a posto, vedi? Ma così è brutto, non è un bip, come un qualcosa che sta strisciando, Emmy. Sì, perché devo allungarlo dal trimmer della scheda EcoCold, dai. Ok, allora va bene. E allora, manigato? Ehi, mangiando, poi stavo mettendo dei led a posto a Nicolas. Io ho mangiato appena, ti passano i carciuffi. Passano i carciuffi, ma passa il forno con i carciuffi. Buona. Ma io ho mangiato un pezzo di salsiccia. E poi avevo voglia, loro sono fatto la pasta al tonno, e avevo voglia di aglio olio. Buona, aglio olio è buonissima, ti buona. Io la mangio tutti i giorni, perché è bella, eh. Aglio olio fatta è bella. Insomma, ho fatto bruciacchiare un pochino aglio, perché mi piace anche l'aglio, mi mangio anche quello. Quello è buono, l'aglio è buono, anche a me piace l'aglio. Se non mi piace la zionda. Le cipolle bollite sono buone, quando fa la carne a brodo. E le cipolle sono belle. Quelle sono le mie, perché tanto loro non le mangiano, me le mangio io. va bene. Ascolti, stavo uscendo a fumare una sigaretta io. Dai, fumo e riprendo. Agi pazienza un attimino, agi. Sì, vai tranquillo, va, tranquillo. Eccomi qua. Stavo guardando un tipo in moto, chiamiamo la moto, stava camminando. E mi ha detto una bicicletta con motore di quelle vecchie pure, però era 140 km/h, lui era disteso praticamente nella moto con il catto. Niente, io invece mi stavo guardando della roba su, seguo queste pagine di ritrovamenti di case abbandonate o ritrovamenti. Questi tipi hanno trovato una sorta di quei Mercedes vecchi, queste case abbandonate in continente, fuori dal campo, cioè case prese mollate così e niente, dismesse. Sì, io lo so, perché c'è un amico che ci va e ha detto: ma tu sai le macchine che ho trovato antiche, scrivanie antiche? Però lui è una persona, insomma, 45 anni, è il mio, come si dice, è il mio ex collega di lavoro, è una persona seria, cioè lui va, fotografa o guarda, però non tocca uno spillo. Sì, anche questi qua non toccano niente. Beh, tu capita, sia quella pagina italiana sia quella tedesca. Aspetta, non dire. E ci salute. Grazie. Niente. No, sono dove, già mi piacciono a me questi, ogni tanto me li guardo, meno un altro. E salute. Sono uscito fuori a recuperare il cane, e se l'aria fresca mi ha fatto stare utile, dai. Va bene. Vediamo un po'. Antonello, ci sei? Invece senta, stasera Antonello, ci sei? Nisba non c'è, non ha acceso. E lui è perfettino, non c'è tempo, un po' instabile, caspita, non riaccende le radio. Davvero? No, io sto guardando un po' questo, non so se l'hai mai visto, stanno pubblicizzando questa vernice che si mette sopra i titti, è grigia, non ho già fatto insomma delle volte grigia, che però fanno anche, mettono due mattoni vicini e poi gli buttano questa vernice qua, ed è una sorta di cosa gommosa, la tirano, proprio le fessure grosse. Sto guardando queste cose qua perché mi interessa, che ho una micro perdita in infiltrazione, anzi in camera di Nicolas, non riesco a trovare dov'è, e nulla, mi servirà questa cosa qua. Resina liquida, mettiti. No, non funziona. No, no, si spacca quando è il tempo, non va bene, ci vuole una cosa che è gommosa, che dura nel tempo, ma soprattutto questa qua va spezzolata, capito? È una cosa che la passi più volte, crea uno spessore, è uno spessore che lo puoi anche allungare, non si spacca. Ah, ok, ok. No, per farmi vedere anche questa sorta di pubblicità che fa tipo Viaroni, che fa il pavimento e poi nelle fughe metti questa sorta di resina, forse è quella gommosa, e va a isolare molto. Eh sì, perché se delle micro, come si dice, spaccature, questa roba qua te la riempie, insomma, e anche queste cose qua ci vogliono, porca miseria. Quello è il minimo. Quello è il minimo. Cosa vuoi che ti dica? Aspetta un attimo, ti vuoi dire una cosa? Meglio. Sì. Alla fine, ma quel cavetto lo stai... è sempre intestato a quell'autoparlante, con gli ingressi microfonici. Sì, adesso gli ho messo anche un altro cavetto per praticamente ricaricarsi da solo. Te l'ho mandato, io spero ascolto. Sì. Ma domani ha messo pioggia, così? No, speriamo di no, perché se no fa di nuovo fango, mamma mia, sto cercando di eliminare il fango, non avevo capito. Però mi sa che per sabato la data, mi sa che per sabato la messa e l'appoggio, comunque. No, non lo so, di questo tempo non se ne capisce più niente. Ahia, non si sa più nulla. La pasta fuori sullo stomaco, E vabbè, poi tu sei abituato anche a mangiare poco la notte. Sì, io la notte rimango sempre leggero. Camisera, poi ho già preso anche le frittelle da Cesaraccio e me le ho mangiate sia a pranzo che adesso a cena, quindi dopo tutto quanto è sciumpiato. Ma t'hai caricata oggi? Porca miseria, ma infatti questa cosa mi fa fare almeno 4 o 5 giorni di... la piango 4 o 5 giorni. Però vabbè, come si dice, meglio un gusto che 100 anni. Lo so, compa, però io ho anche quella cosa della glicemia, quindi no, non è che posso, quella non bisogna esagerare, mia, che sennò è un disastro. Vabbè, quello sì, quello senza ombra di dubbio, però voglio dire, non è che, insomma, una volta ogni tanto ci sta. Sì, no, in genere noi qua ce ne mangiamo molto leggero, ma a pranzo qualcosina, però in più, però a cena siamo sempre leggeri. Allora, ma tu lo sai, adesso ti dico una cosa, maledetta bastarda, una zanzara, eh? Cioè, ci sono già le zanzare. Qua non sono mai morte, anche ieri notte ne ho visto una. Ce l'avevo qua sopra dove fa questo banchetto dove mi faccio i miei lavori di saldatura. Maledette, ma perché le hanno inventate? Porca miseria, già come intendi, di chiuso per pistrelli. Le hanno inventate per dare da mangiare ai pipistrelli. Argo. Argo già si sta riprendendo, adesso ha parte del collo mezzo, la pelle ne è uscita, infatti la stavo tirando io, lui non si lamenta, però quando tiro io tiro e lui abbassa solo lo sguardo per dire mi stai facendo male, fermo, però non dice niente. Ti vorrebbe un morsicare bene, però dice se quel morsico a questo è un disastro, quindi mi conviene soffrendo in silenzio. Sì, soffre in silenzio, no. Poi ho visto che non riusciva, ho detto vabbè, da taglierò con la forbice un altro momento, però di notte non ho grande visibilità qua. Ma tu lo sai che sono, allora, molti parlano perché non sanno, perché l'ignoranza secondo me è tremenda. Allora, i cani morsoidi, dai, come può essere il tuo, il cane grande può essere il tuo, i miei, che... allora, sono più adatti quelli ai bambini che quelli piccoli, perché magari un bambino giocando può darle un colpo, il cane grande ha più resistenza al dolore, il cane piccolo si gira subito a morsi, e quindi sono anche... diciamo, non è che perché resistono all'ora evita il colpo della mazza, però magari tipo sul bambino giocando fa il cane si lamenta, ma però il cane piccolo va a morsicare, il cane piccolo è maledetto. Lo so, però la gente parla perché poi io non so come sono stati cresciuti anche quelli che hanno ne aveva due dannati, non lo so. Io ne conosco uno che però non era cani due, aspetta, quelli bianchi, con le pecore, come si chiama? Pastore male in mano. Che ce l'avevo anch'io, figurati. Questo qua mi stava andando a mangiare, prima di mangiare stava giocando, deve essere, perché aveva maschio e femmine. Praticamente i due era in calore, si è avvicinato troppo a lei e gli ha tirato al padrone, solo lui andava da mangiare, e gli ha tirato un mosso a faccia. No, vabbè, me l'avrebbe tirato, però non l'avrebbe più fatto, quello è poco ma è sicuro. Tu dirai al cane quando sta mangiando non ti devi avvicinare, non devi fare niente, ci sta, però ci sta anche che mi fa una sorta di ringhio, perché magari sei infastidito e va bene. Per esempio il mio è il fornese, quando sta male oppure quando devo dare la medicina, non si può, lui proprio il coso delle medicine se ne accorge da lontano. Adesso io ti mando una foto, no, che me l'ha mandata mia moglie adesso, di com'era, giusto per farti capire. La bambina in cameretta c'ha il suo tappeto dove gioca e così, e infatti qua è successa una guerra. Si è messo sopra e ha la zampa sul computer, cioè è malato, è un bambino, ha la zampa sul computer. Adesso ti mando la foto. Io perché non hai mai visto di quelli dei rottweiler, per dire, che fanno la cuscina ai bambini. Allora, perché loro si attaccano, l'importante è che non entrino in un coso di possessività, perché poi magari vai a prendere il bambino e morsica il bambino. Il cane i bambini deve rispettare, perché il cane lo sa già, il cane non è scemo, il cane lo sa già quando un bambino lui lo capisce. Però io dico sempre una cosa, che quando ci sono cani grandi di mezzo e ci sono i bambini che giocano fuori, che sono, non bisogna mai lasciarli da soli, mai, perché finché il bambino è tranquillo ci sta e cosa, però se trovi quei bambini, io dico, quei bambini maleducati, proprio maleducati, perché la maleducazione non è colpa dell'uomo, è colpa dei genitori. Se per esempio mia figlia il cane lo rispetta, però può venire mio nipote o qualche amichetto o qualche amichetta che va dal cane, gli tira il pelo, il cane è fastidito, ecco, di lì che il cane lo potrebbe morsicare. Ecco, quando succedono i guai, succedono per quello, ma non perché il cane di punto in bianco, soprattutto nel nucleo familiare, va a morsicare. No, c'è sempre un qualcosa di fondo. Lo so, vuoi farglielo capire però? No, non lo capiranno mai, l'ignoranza domina sovrana. Il cane non ha il, a meno che non è, ma il cane va bene, uno shock, altrimenti il cane non morsica, il cane se è infastidito magari può evitare, magari io sono qua oppure c'è il bambino giocando e il cane evita, il cane se prende, se ne va in disparte, e quando se ne va in disparte non lo devi cercare. E dico sempre, a volte quando si avvicinano che dico vanno a accarezzargli la testa, non accarezzate la testa al cane, no, ma io i cani torra, visi, no, accarezzare ugaba ugani, non te andare in faccia al cane, perché poi può girar male, il cane devi sempre prendere, avvicinare lui per prendere e darti confidenza a lui, altrimenti non ti avvicinare al cane, lascialo stare. A volte quando li porto in giro, quando li porto in giro, che bello, è bello, però non lo tocca, non lo toccare, perché non è perché sono geloso, ma perché non ti sa imporre con un cane, quindi perché li vedi, no, che bello piccolino il cane, non è che tu gli dici piccolino e gli fai il sorriso, lui è tuo amico, no, il cane quando gli fai il sorriso stai facendo vedere i denti. Quindi cosa può capire un animale? No, ma allora, a parte che la testa, loro associano una cosa, che la testa è del padrone, nel senso che solo il padrone lo dovrebbe accarezzare. Infatti molte volte io, quando dico, oh, posso toccare, ho detto, sì, vieni, guarda, gli metto io la mia mano, gliela metto in testa, e loro accarezzano il corpo. Quando hanno visto che anche loro stanno accarezzando il corpo, si rilassa molto di più. Però Algo è sempre bravo, non è che per il momento, per adesso, non ho mai visto cose sorte. Ottile, il cane dà segni di squilibrio già dal primo anno di età. Se un cane non è equilibrato dal primo anno, a me quando poi può girare di testa, quello che vuoi, però c'è sempre un perché. Io quello che quando li porto in giro, perché io li porto in giro, che lo posso accarezzare, accarezzalo, però prima ci sono io, poi c'è il cane. Non toccare il cane. Anche perché se dico fermo, loro stanno fermi, stanno obbedienti, io li porto in pinetta, li porto in spiaggia, li chiamo e vengono, tranquilli, non hanno fatto mai niente. Però non sai mai con chi ti trovi davanti, perché non è vero che il travagante chi piglia, anche che gli va incontro correndo, li si inginocchia, chi dubita magari li baci, perché la prende come affronto anche. Già può essere. Adesso mi è uscito un altro lavoretto da fare in casa, le persiane, le cose, come cavolo si chiama, gli sportelloni, è partito quello che lo chiude, cioè ogni tanto ce n'è una, capito? Non si finisce mai qua, non si finisce mai. Aspetta che inizio a fare quel muro di recinzione, non so se hai notato, c'ho il muro del cancello che è un po' storto. E chi suo cuto in terra e devo smontare, allora devo fare i primi lavori urgenti sono rifare tutta la facciata, rifare il muro e cancello quello vuole preso, smontato e portato dove c'è il garage, e nel frattempo ho addrizzato il muro e levigato il cancello e rifatto. Non è marcio, però è arrugginito, però la cosa urgente da fare è quella lì, sono queste cose qua, è la facciata è un disastro, però te l'ho detto l'altro giorno che quando sarà poi è a prendere un bagno di sangue. A chi lo dici? Ce n'è da fare, ma io sinceramente devo rilassarmi, ma un bel, non ne sono ancora uscito, figurati. Io, purtroppo, oddì, non puoi neanche però andare a perdere la roba, perché si può trascurare un anno, due anni, ma poi bisogna sempre arrivare al dunque. Anche io sembra così, ma qua ne ho roba da fare, tanto. Oggi quando mi sono messo e mi ho fatto i succhioni degli alberi dall'altra parte a casa, tutti i succhioni, altrimenti dice, ma intanto dirisse con la falcetta, prendi, tagli, fai, ho già compreso, però l'ho sempre fatto. Vuole sempre fatto, poi dovrò mettere mano a tutte le canne del muro per riprendere tutta quella roba che si è rotta e finta che so canne da me, rumare quando del Bungaville, che è un disastro, perché poi il bello è dove la metti, perché la taglia adesso ed è fresca, no? Quando a seccare si fa a maggio, si fa a giugno e devi chiedere i permessi per bruciare, o me li carico in furgone, ce li porto al concentro, viaggio per viaggio, perché altrimenti allora, tagli da un posto e riempi l'altro, ti riempi il posto pulito con la roba, con la mondezza, diciamo, tra parentesi. Allora è così, infatti, è proprio così. Non lo so io. E da poi non è che dura, dice lo fai, dura 5-6 anni, a settembre è punto a capo. Ah, per carità, io lo stesso, c'ho questo carrellino che, Dio mio, appoggia la cosa, però poi alla fine libero, no, è sempre pieno, e quando mi serve non ce l'ho, devo svuotare tutto quanto in terra. Oh, ioia, poveri noi, piglia con deli, voglio tu, piglia e scendi a futidini. Aspetta, che stavo sbagliando. Sì. E come va la canzone? No, prendete un deli. Non mi ricordo come faceva la canzone. Io non sono sempre. Io ho la vettura, già lo sai, e poi ho il furgone che uso io. E ti devo dire una cosa. Io ho imparato, tu dirai però che sono diverse, perché però io ho imparato e cioè sto imparando e ho imparato già da un po' che bisogna unire l'utile al dilettevole. Una vettura in casa messa bene, a posto, bella, ci deve essere. Però a me sinceramente uscire in vettura non me ne ha fatti nulla. Io in vettura esco con la famiglia, io quando sono solo esco o sono sempre col furgone. E unisco tutti al direttevole perché a volte vedono il furgone, esco, ma non ne fai viaggi, sono scarico. E che cosa devi fare? No, mi devo portare, devo andare a ritirarmi roba da Tecnomat che verranno dire, mi vado tanti anni io, ho detto, io. Quindi, sì, unisci tutti la diretta e voi. Sono, dai, tanto. L'unica cosa è che è un po' pesante, però non mi interessa, dai. Ma capita tante volte, capita tante volte, anche gente che ti ferma, anche gente che vai, sei lì da bricomeno, da coso, ma ti posso chiedere se mi fa un viaggio di materiale, e aiuto, Tony, carregheggia e vai. No, vabbè, allora, sin che lo si fa lì è un conto. Però io ti posso garantire una cosa, no? Io qua, adesso ci abito tanti anni, no? Molta gente sa il lavoro che faccio, tutto quanto. Beh, lo sai che non è semplice trovare, cioè, qualcuno mi ha chiesto se avevo qualche mini escavatore per fare qualcosa in campagna. E io ci ho pensato, tu già me lo prendo, lo tengo qua. E invece non è così semplice, perché poi ce l'hai ed è un ferro buttato perché o lo fai veramente per, cioè nel senso, per farti qualche soldino di sabato, oppure rimane lì buttato e te lo chiedono così, giusto per farmi un piacere, capito? I piaceri, vabbè, una volta te lo posso fare, poi diventa lavoro, capito? No, il piacere no. Piacere, come tutto lo faccio, ma poi io sono il primo che ti chiedo il piacere se me lo puoi fare di sabato, no? Però io sono quello che ti pago, tu a me quanto chiedi? Cioè, 60 euro l'ora, 70 euro l'ora, va bene, me lo fai, però ti devo chiedere un piacere, me lo fai sabato o mezza giornata, tutto il giorno, sei disponibile, te lo vuoi fare, perfetto, te lo fai, però ti pago. Il piacere puoi farmelo, visto che magari tutti e due stiamo lavorando in settimana, non ce la fai, no? Me lo fa un piacere, me lo fai di sabato il lavoro con l'escavatore, però ti pago, mi dici quando vuoi ora e ti pago. Il piacere è farlo magari nel fine settimana, però un biasini non è farlo gratis, perché quello non esiste. È come che a me mi dicono, ma ci vieni, quanto, oppure me la presti quella attrezzatura lì? No, zitta, me la presti no, me la presti, non te la presto, io ti posso fare il piacere di magari prendere e portartela, no? Se sia a Sassari, se no, io te la porto, però mi paghi il noleggio, mi segui? Dell'attrezzatura da lavoro, mi paghi il noleggio, perché gratis non te ne do. Purtroppo è così, io ti posso fare il favore di domenica, il favore è che te lo sto facendo di domenica, di sabato, nel mio lavoro, poi l'abbiamo sempre detto, a me se ce la vuoi fare un'antenna, la facciamo, me la futti nuda, vuoi vedere una radio, la facciamo, mi interessa, una mano, però nel mio lavoro, il mio lavoro devo essere pagato, nel mio lavoro professionale devo essere pagato. È perché è così, basta, non vittoria. Poi la passione è un conto, la professionalità è un'altra e vuole pagata, io la penso così. E allora, vabbè, io dipende, adesso per dire, favori anche ad amici che allora erano amici, sono degli amici del momento, vabbè. Siamo tuttora amici, per carità, perché ci vediamo, cioè ci salutiamo, dobbiamo invece una cosa, non è un problema, amico di Greffa, aveva un problema, casa sua, era riuscito ad avere un mini escavatore, ma non lo sapevo usare, doveva fare una faccia asettica, e te cosa mi vuoi? Farò io, te la posso io, non è un problema, sono sceso e gliel'ho fatta, è finita, ma voglio dire, 3-4 ore come escavatore, fatta, messa, finita, andata a buon fine, e cosa devo fare? Cavolo, mandiamo una bassa asciutta e tutto finito, non me la fregava niente, capito? Era una cosa per trovare anche un amico che ero tanto tempo senza vederlo. No, io, se a me mi dovessero chiamare, vieni a guardarmi, vieni a tararmi questo impianto, vieni a, che mi piazzi, me lo piazzi questo impianto, io mi faccio pagare, ti ripeto, finché è roba fatta per la passione, per io ci facciamo uno spuntino, guarda che due gasci, aiuto, se me la futti, svemo lì puntino, svemo la cantata, perché io ci sto a queste cose. Però non ci siamo, perché poi lo sai qual è il fatto? Io prima queste cose le facevo gratis, cioè gli amici, non è che poi caspita, dopo parlate così, te restituiva, va bene, poi l'altra volta me le presti, sì che te li presto, e si sposava un amico mio, me li presti, sì che te li presto, mi la prendo, un'altra volta bruciati, e vabbè, io ad aggiustarmeli, ascolta, non è che me li presti, te li presto, però sappi che la volta scorsa li sono rotti, e quindi cosa avremo? Se si rompono ti paghi i danni, e poi magari sono venuto anche a sapere che loro ci facevano pagare con la roba prestata da me, e allora non vi diciamo, tutti quanti, chi mi chiede qualcosa del mio lavoro, anche quando mi chiamano, non è che puoi darmi un'assistenza, certo, guarda che io sono al telefono, guarda che dopo che mi prendi, mi tratti di più di 10 minuti, io prendo volo e vengo da te, una volta che vengo mi devi pagare, io ti posso dare un supporto di 10 minuti, a meno che non è un cliente, ti chiede, va bene, però se è anche un supporto tecnico al telefono, il supporto tecnico al telefono gratis dura 10 minuti, dopo 10 minuti, guarda, non sto capendo, devo chiudere, devo venire lì, e la mia visita di lì viene 38 euro l'ora, quindi, sai chiaramente cosa devi fare, no, purtroppo ti, basta, io no. No, vabbè, tu fai bene a pensarla così, io sono differente su questo fatto perché, boh, non lo so, forse perché, cioè, se, io parlo di amici, non di gente esterna, di gente che non conosco, di gente che, però voglio dire, se un amico a me mi aveva chiesto, ma toccasse di via, vengo, non c'è problema, perché aveva la possibilità di incasinata, capito? Quindi non è che ne ho approfittato al suo bisogno, capito? Sì, una volta ci sta, una volta, ma è anche una persona che solo deve militare, perché ti ripeto, io ho prestato attrezzatura, si hanno incasciato le dinà e io sono rimasto con un pugno di mosche in busciacca, capito? Anzi, con un pugno di mosche negli occhi, perché ad Aboi mi sono arrabbiato, perché c'era la roba rotta, invece cosa ha fatto? Questo la roba, questo amico mio gli ha portato la roba, la prima volta non si è fatto pagare, e poi, sai, voce sparge voce, e allora me ne porti quelle dell'attrezzatura? Sì, e a voglia, tanto vero Marco che mi ripiglia e io mi bilo 254 della Siradda, capito? E si faceva la cosa si faceva i soldini con, ma ci sta, ma dimmelo, e ti dico, va bene, io ne voglio 100 euro. Io ne voglio 100, perché la roba l'ho pagata, poi tu con tutto quello che riesci a guadagnarti ti guadagni, ma non me lo presti che devo fare, me lo presti che mi hanno chiesto, se no è così, se quando si comportano così con me, nisba, e allora non piglia, no, guarda, anche da poco ho telefonato, anche da poco per carnevale, non è che me le presti, no, io le affitto, compa. Amico mio, io le affitto e no, così prendevi, venivi anche tu, perché poi ando con la scusa, no, porti la bambina, no, mia figlia, no, mia figlia, io se devo far andare in un carro di carnevale, io le scrivo e lei paga, come tutti i bambini, e niente, però no, non devo stare io di lì, perché ti ho portato cosa, no, Vinneno, non ce n'è, basta, finito. Senti, io devo ancora recuperarmi dei nammi, ma tu lo sai, mi devo ancora recuperare i soldi da lavori. Allora, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Che gente che poi se devono partire in vacanza, devono partire in crociera a maggio, a giugno, sai, tu mi devi dare di nammi. No, a me non prende più niente. Ti ripeto, se parliamo di passione è un conto, però sulla professionalità non viene più di nuda nessuno, basta, Va bene, ci sta, caspita, no? Che si parla di lavoro, chi è lo scemo che... voglio dire, io parlavo di gente... Aspetta che... Perché mi si è abbassato il cadere di nuovo? Vedete che si è abbassato il cadere qua. Certo che se vado a lavorare per lavorare mi faccio pagare la cento, no, quello no. E poi una cosa come la tua, che tu hai attrezzatura da lavoro, non la puoi, no, quella non si può prestare, quella non è una cosa che puoi prestare così è per lavoro, me ne occuperò io per travagliare, non per fare favori a chi vuole fare il carnevale, il carro e ballevare, no, assolutamente. Ma stai scherzando, poi ti si rompe qualcosa su di nami. Sono soldi. Poi logicamente se un amico mi chiama, Gabbia, ci viene a casa, mi ho comprato lo zero, aiutami a collegarlo, noi li miglioreranno. Cioè, di lì non è che uno ha il paraocchi. Però se, caspita, mi vieni e mi dici, no, ma devo fare un coso, cioè, se permetti, e poi uno ti dice di sabato, no, perché poi sabato, perfetto, io di sabato vengo e ti faccio la cortesia e vieni di sabato. Però le ore me le paghi, cioè poi se devo portare attrezzatura, devo portare quello, quell'altro, quell'altro ancora, devo venire domani mattina a smontarmela, devo... siamo buffonetti. No. Comunque è così. Il cartello è sempre uguale, per tutti, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E allora, e cioè, questo sta vendendo, un condizionatore per campero o roulotto, per info contattatemi, quello che era piccolino però, che sa venire appigliato, Caravan Arico, non lo so, ma tanto non c'è niente, io lo voglio vendere, figurati. Ecco, lo vendi ti prendi l'escavatore. No, non mi interessa proprio averlo, anzi mi ho saputo tramite quel collega mio, ex collega, che dove ero io, la cosa sta andando un po' a rotoli. Il karma, dico no, ma intanto quello è il karma, non cattate vittoria, perché poi quando vedi che una persona che vale, una persona che sa lavorare, una persona che ti dà coso, se ti chiede le 200, le 300 in più, dagliele, trattalo bene, oppure arriva un accordo, può essere che uno ti dice, io soldi in più non te ne posso dare, io accetto questo, però ti posso venire incontro e ti posso dare il rimborso, da ti posso dare un rimborso da giù, di buono pieno, e visto che sei lontano, se c'è qualche collega che di Sassa, vi compro la macchinetta e viaggiate assieme e non dovete mettere né gasolina né niente, e così magari uno accetta anche la cosa, no? Perché alla fine lo stipendio è pulito. Ma anche con il rimborso gasolio, dai, con chi viaggia, se gli dai un qualcosa, credo che gli fa piacere. Fatti dai Dusotti, sono fatti solo, perché non ci credo che tu gli avessi detto di no se ti avrebbe fatto una proposta del genere. Ah, io gliel'ho anche quasi fatta la proposta di solo, che non voleva accettare, ma non ne frega niente. Così ho saputo che gli hanno rubato un martello di escavatore, e già è uno. Mi ha detto, guarda, ti ricordo l'ambiente che c'era quando tu mi hai dato l'intuito, e tu è schifoso, che uno non si salutava con l'altro, ma tu è peggiorato, io vado, rido, li vedo così, cioè la gente sta andando lì ma non sa neanche cosa sta andando a fare, e tu adesso arriva. Detto, tu pensa a te stesso e fregatene, che così almeno tu sai che sei andare avanti, puoi andare avanti, E se manchi tu, magari lui piglia una bella batosta stesso, eh? Sì. Per carità. Ma veramente, no, non se la beve, ragazzo, ma cosa, ma da chi su? E se pensi a farsi in vacanza, che pensi a farlo, che pensi a mandare avanti nuda. Una volta che perdi i collaboratori, una volta che perdi la persona di fiducia, rifare la squadra è un disastro. Perché sì, tu hai la squadra, sei andato uno e tu hai la squadra, però manca quello che ti porta avanti la squadra. E commenti che un babbo biglia, va zincu se migliori e sono minori e non ribiglia mamma non bada e cura, chi dici ne la bucciare? E non gli sono bene però. E non c'è il babbo o la mamma che li porta a scuola. Loro escono da casa e dicono, boh, andiamo e andiamo a fare un giro. Non vanno a scuola. Il responsabile della squadra, il caposquadra è quello, deve prendere gli operai, non per mano, però deve indirizzarli e, per il proprio dovere, per fare quello che devono fare. E purtroppo le carte quando si giocano male, si giocano male, già saranno arrivati i suoi. Comunque, è così. Vai, riprenditela, dopo io chiudo che mi corco, eh? Sì, anche io. Adesso mi ho preparato un po' di roba da mandicare, solo che era troppo calda, quindi la sto cercando di, come si dice, di raffreddare prima di darla. Così, vabbè, non lo frega niente, l'importante è che il karma colpisca bene, una volta che fa deve andare. Lo so, Tito. Però lo vedi come vanno a screditarsi, a non mandare avanti l'azienda, perché sono stupidi, non accettano i consigli, non accettano. Loro una volta che si vedono queste cose in mano, ma tu ascoltalo sempre l'anziano sul lavoro bisogna sempre ascoltare le persone anziane e su chi ha più esperienza di te, anche se non lo vuoi, se è una cosa che bisogna sempre ascoltare chi ha esperienza o sempre capire chi ti vuole veramente aiutare e riconoscere chi ti ha aiutato e chi ti ha permesso di andare avanti, non che alla prima cosa, io non posso, ma cosa si dice, parla delle cose, bisogna parlarne sempre, soprattutto sul posto di lavoro, perché chi ci perde quasi sempre è l'imprenditore, mai l'operaio, perché l'operaio al giorno d'oggi si sposta, poi uno come te il posto di lavoro lo trova. Io non lo so se lui può trovare uno come te che rimanda avanti l'azienda. Ma comunque, hai visto cosa succede. Speriamo di no, però. Si è fissata. Sì. No, ma sai cosa è il brutto? Che quando lui si vede due soldini, allora fa lo stravagante. Tanto è vero, si è cambiato, aveva l'X-Fi bello grande, lucido, bello, proprio tenuto bene, sì, era un po' più in officina che in casa sua, però una volta che l'hai portato 4, 5, 6 volte in officina, penso alle cose, poi le hai messe a posto. Ah, se l'ha versato, se ne ha comprato un'altra, più sportiva, infatti anche gli operai, voglio dire, cioè non mi siete in disponibilità e ti compri le macchine nuove, lì puzza, capito? La cosa li puzza, no? Cioè tu mi dici non hai soldi, cazzo, per tenerti un operaio valido e ti fai vedere comprandoti macchina nuova, sportiva, boh, vabbè, io questo non lo concepisco, ognuno dei suoi soldi le fa quello che vuole, però per carità, prima fai stare bene la gente, poi perlomeno io avrei fatto così. E poi avrei pensato anche a me, invece subito vuole sforare, capito? Vuole far vedere che le cose stanno andando bene, ma non stanno andando bene, a quanto ho capito io. Comunque, se sono rose fioriranno, se sono spine spineranno. Andare a capire, anche io dai, ne approfitto a chiudere, che devo preparare ancora la roba per domani, e poi a nanna, pronti a combattere ancora venerdì e poi sabato sabato a Trinità, d'Agosto. You perfect, my friend. Dai, ci sentiamo domani, se coincide. Ma già sono, sì, domani sono a casa, sono anche sabato a casa, perché poi domenica devo fare una cosa e niente, poi domenica mancherò, credo, devo fare un lavoro, però sabato già sono a casa e ciccio, e anche perché non la gioco più bene, sta in giro, andetorra, e non si può più fare nulla. Domani vorrei prendere il pellet anche. Va bene, dai, buonanotte a te e a quella familiare. Ci sentiamo domani, ciao, buonanotte. Andare, dai, alla prossimina, ciao, buonanotte e buon lavoro per domani, ciao. Ciao, buonanotte.